dalla guerra santa contro gli invasori russi fino a diventare presidente del regime filorusso della Cecenia. Questo è il percorso fatto da Akhmad Kadyrov, il presidente ucciso ieri in un attentato a Grozny assieme ad altre persone. Un percorso un po' strano, ma che è stato lo stesso Kadyrov a spiegare un anno fa in una intervista con la Pravda. In questa intervista Kadyrov spiegava che all'inizio lui aveva deciso di combattere contro gli invasori, ma in realtà poi, più che cambiare opinione sui nemici, cioè sui russi, ha cambiato opinione sui suoi alleati. Ha ritenuto infatti che le azioni intraprese dalla guerriglia cecena, con una serie di attacchi al di fuori dei confini della Repubblica ex sovietica, attacchi ad esempio nel Dagestan che hanno portato alla morte di molte persone, ecco, proprio questi fatti sono stati quelli che gli hanno fatto cambiare idea. Così diceva un anno fa Kadyrov in un'intervista con la Pravda. In sostanza, secondo lui, non sono stati i russi a invadere la Cecenia, ma è stata la guerriglia, portando la guerra fuori dai confini della piccola Repubblica Caucasica, a chiamare in qualche modo gli invasori di Mosca dentro il suo territorio. Questa è la ragione per cui Kadyrov, proclamandosi comunque sempre un islamico praticante, diceva in questa intervista di essere stato in grado di leggere il Corano sin dall'età di 5 anni, ricordiamo che per i musulmani il Corano va letto sempre in arabo. Ecco, dopo questa professione di fede islamica, Kadyrov in quell'intervista spiegava appunto che il traditore non era lui, ma i traditori erano i suoi ex compagni di guerriglia. Una spiegazione che lui ha cercato di dare, evidentemente per giustificare il suo cambio di casacca, ma una spiegazione che, come dimostrato tragicamente ieri, non deve aver convinto i suoi ex alleati, sospettati del sanguinoso attentato in cui lo stesso Kadyrov ha perso la vita nello stadio di Grozny. Marco Mostallino per Reporter Associati e Amisnet.